Buonasera Massimiliano. Allora Massimiliano, sì. Negli Stati Uniti c'erano i Traveling Wilburys, quindi Jeff Lynne, quindi Bob Dylan, quindi George Harrison, quindi Tom Petty. Da noi abbiamo i Barnetty Brass Band, cosa dici? Beh, dico che insomma cerchiamo di stare al passo con questi grandi nomi che hai citato e che non sono nomi da poco, però devo dirti che effettivamente l'idea dei Traveling Wilburys era un'idea che era ben presente insomma sia in me sia negli altri tre autori che hanno partecipato a questo progetto, perché si tratta di un'idea che forse negli Stati Uniti è molto più usuale, cioè quella di una super band, come hai detto tu, quindi di quattro autori, quattro artisti, diciamo quattro entità ben distinte che si sono riuniti intorno a un tavolo con delle chitarre e hanno buttato giù idee e canzoni, insomma. Certo, un tavolo che si è posizionato a 2700 metri di altezza, quindi a Chupadero nel New Mexico, per far poi risaltare questo album. Massimiliano, come mai così in alto e così lontano? Beh, è chiaro che quando è nata l'idea di questo disco insieme a Andrea Parodi, che è un autore di Come, a Massimo Bugola, che è un nome storico della canzone italiana, sì, è saltata fuori l'idea di creare questa sorta di concept album sui banditi, i briganti e in generale tutti, diciamo, i fuorilegge intesi anche in senso lato. E l'idea chiaramente poi di andare a registrare questo disco in America, dove da molti anni io e Parodi andiamo a suonare ogni anno e dove abbiamo numerosi amici e contatti, è un'idea che è venuta subito e qui entra in gioco poi il quarto elemento, che è John Manson, che è un musicista in Italia molto conosciuto perché ha un rapporto molto molto profondo col nostro paese. John ha vissuto in Italia anche per tre anni, parla molto bene l'italiano e ha un grande seguito qui da noi, e abbiamo messo insieme i pezzi. John vive appunto in New Mexico da molti anni, dove ha messo su famiglia là, e ha questo studio a Chupadero, che è un luogo sacro. Esattamente, un luogo sacro, Massimiliano, quello è importante, luogo sacro per gli indiani Navajo, è un luogo sacro importantissimo. E quindi ci siamo come dire, ritirati per due settimane in questo studio circondato da questi paesaggi magnifici ed è nato questo disco, e ci sembrava importante proprio per mettere, direi, in risalto anche la natura antropologica un po' del disco, perché noi siamo andati in un paese e ci siamo immersi nei suoni e nella cultura del New Mexico, che è una cultura mista fatta di cultura indiana, cultura ovviamente americana, ma anche tanta cultura ispanica, e ne siamo usciti con un disco che abbiamo pensato di intitolare esattamente come il luogo in cui è nato. Massimiliano, tu hai parlato di questo luogo importante, dobbiamo parlare anche dei tanti amici che hanno collaborato al vostro disco, tanti amici importanti, decisamente. Sì, anche perché appunto l'idea della Barnetty Bros Band, l'idea di una famiglia aperta, quindi che comprende noi quattro, ma poi in un progetto come questo sono confluiti tanti tanti importanti interventi, come per esempio quelli di Tom Russell e Terry Allen, che sono due nomi storici della canzone d'autore americana, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere nel corso degli anni durante i nostri viaggi. Poi abbiamo l'intervento di Chris Barron, che è un cantante degli Spin Doctors, che insomma erano un gruppo che ebbe anche un certo successo anche in Italia, mi ricordo. Sì, mi ricordo, sì, sì. 15 anni fa, e poi tanti musicisti, da Joel Guzman a Andrew Arden, tutta gente che a Mark Clark, batterista di Cat Stevens, quindi tanti musicisti che insomma sono, come si dice nel gergo musicale, sono nel giro da tanti anni, quindi è stata una bella occasione di incontro, di scambio e di confronto, perché poi una cosa che noi sottolineiamo sempre e ci teniamo a questo è che siamo andati in America, ma non ci siamo andati da provinciali, ci siamo andati con il nostro bagaglio e abbiamo mischiato un po' le carte, i suoni e le idee e le culture con i musicisti americani. Bene, allora stiamo parlando con Massimiliano La Rocca, uno dei componenti di questo supergruppo chiamato Barnetti Bros Band. Hanno intitolato il loro disco Chupadero, e perché non ascoltare già il primo pezzo, un primo pezzo che Massimiliano, noi abbiamo scelto in L'Angelo del Bronx, tra le 11 tracce che compongono appunto questo disco. Allora ce lo ascoltiamo, poi torneremo a commentarlo insieme. Sono nato in queste strade dove non cammina il sole, e ho imparato molto presto il valore del coraggio. C'è chi porta la sua croce, c'è chi ascolta la mia voce. Canto per chi è senza regole, per chi cerca favole. Tutti qui mi chiamano l'angelo del Bronx. Quei ragazzi a Coney Island sono mosche in un cassetto, sempre in cerca di occasioni, senza casa, senza un letto. Li chiamavo alla veranda come fossi il capo banda. Tutti qui rispettano l'angelo del Bronx. Non ti puoi nascondere, non ti devi arrendere. Apri la tua radio e fatti un giro insieme a me. Ho incontrato una ragazza, il suo nome era Susanna, i suoi modi erano cortesi, le sue origini borghesi. Lei mi chiese di scappare dalle grinfie di suo padre. Tutti cercano l'angelo del Bronx. Non ti puoi nascondere, non ti devi arrendere. Apri la tua radio e fatti un giro insieme a me. Il racconto dell'amore, della gioia e del dolore. Sono l'angelo del Bronx. Parlano una sera su una macchina rubata e mi misero in galera 12 anni di pelata. Ora canto per i cuori di assassini e truffatori. Tutti qui mi chiamano l'angelo del Bronx. Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato un brano di Barnetti Bros Band dal loro ultimo lavoro che si intitola Chupadero, questa canzone L'Angelo del Bronx, una ballata davvero carina, una scacciapensieri quasi quasi da definirla, se non per la presenza anche di banditi, briganti e fuorilegge, non solamente in questa canzone ma anche in tutto il disco. Ma Massimiliano, come mai la scelta di queste figure losche, definiamole? Ma perché io credo sia anche un segnale importante, perché poi al di là del fascino letterario e cinematografico, e poi l'aspetto letterario e cinematografico è molto presente nel disco ovviamente, però al di là di questo c'è anche una lettura, credo, un po' sui tempi, nel senso che viviamo in dei tempi in cui i ruoli si sono invertiti, ovvero che forse oggi i veri banditi, i veri briganti, i veri fuorilegge o la gente dovrebbe stare in carcere sono forse le persone insospettabili, per non dire quelle che ci governano. E quindi si andrebbe a toccare un altro tema molto scottante, soprattutto in questo periodo dove c'è il tribuna sì, tribuna no. Esatto, ma comunque poi torniamo alla musica, nel senso, sì, per noi l'aspetto più importante al di là di questo era quello di dare un taglio letterario e cinematografico, e soprattutto di porre a confronto due tradizioni che sono quella americana e quella italiana, e due epiche diverse, perché poi gli Stati Uniti sono un paese molto molto giovane, con poca storia alle spalle, quindi è chiaro che figure come quelle di Billy the Kid, Jesse James ed altri banditi sono rimaste nell'immaginario collettivo perché sono diventati una sorta di eroi popolari. Questo è successo anche in Italia con i briganti italiani della post-unificazione italiana. Anche se chiaramente noi abbiamo una storia molto molto più grande rispetto a quella degli Stati Uniti, e quindi fatichiamo forse di più a crearsi un'etica come appunto negli Stati Uniti, dove un'etica che poi troviamo in letteratura e soprattutto nel cinema. E l'altro giorno ha fatto un'intervista Massimo Bubola, che è uno dei quattro protagonisti della Barnetti, diceva che ci sono due persone di una certa età, nel senso musicalmente parlando, e due boccia, cioè te e praticamente Andrea Parodi. Beh sì, questo termine sta per giovani, ma chiaramente sì, lui è veronese puro sangue, ma Massimo boccia nel senso di giovani, sì, esatto. Esatto, beh sì, innanzitutto ringrazio Massimo, anzi domani lo ringrazierò per avermi dato dei giovani, perché siamo giovani, ma sia io che Parodi siamo, come si dice, sulla strada da tanti tanti anni. Io ho iniziato la mia carriera oramai quasi 10 anni fa, ho pubblicato già 3 dischi e sono stati anni fatti di tanti tanti chilometri a suonare in tante situazioni diverse, dalle più belle anche alle più brutte, perché insomma questo fa parte della formazione che ritengo necessaria. Tra altre cose, ho visto girare da queste parti un tuo disco. Sì, eccolo qua, sono proprio adesso, volutamente, l'abbiamo già fatto ascoltare la scorsa settimana un'altra volta, perché era giusto un aggancio col disco nuovo che hai fatto. È l'ultimo che hai fatto, La breve estate, mi pare, Massimo. Sì. Quando sarà il nuovo disco di Massimiliano La Rocca come solista? Al di là di questo progetto bellissimo con gli altri tre musicisti. Beh, chiaro, il 2010 adesso sarà dedicato ai Barnetti. Io spero di avere le possibilità nel 2011 di uscire col mio terzo disco. Esattamente. Disco solista, cioè. Cosa voglio chiederti, Massimiliano? L'idea, l'input è partito da Massimo Bubola, è stata una cosa assieme praticamente? Ma noi, sia io che Parodi, abbiamo incrociato Massimo Bubola nel corso degli anni più volte. Poi direi che la cosa si è concretizzata, l'idea è nata un po' a tavola. Ricordo una volta che avevo aperto un concerto di Massimo Bubola vicino a Lecco, e lì forse sarà stato il vino, il grado alcolico molto alto, ma ricordiamo che Massimo è un grande esperto sia di vini sia di oli, dobbiamo ricordare. Questo ha un rapporto con l'alcol abbastanza quotidiano, insomma, da buon toscano me la cavo. Anche voi, sì, esatto. siamo là. È una bella battaglia. Esattamente. E comunque niente, da questa serata qui poi nacque un po' l'idea di fare un disco insieme. Poi dopo il concept del disco lo abbiamo messo a fuoco successivamente, però è un'idea nata direi quasi naturalmente, questo credo, in questo risieda un po' la forza e la bellezza di questo progetto. Bene, quindi un altro esempio di un altro disco che è nato davanti a una bottiglia di vino, si può dire così. Esattamente. Tutti i grandi dischi sono nati davanti a una bottiglia di qualcosa. Assolutamente sì. È verissimo. Assolutamente sì. Stiamo parlando piacevolmente con Massimiliano La Rocca, portavoce di questo grande gruppo che si intitola Barnetti Bros Band. Oltre a Massimiliano La Rocca abbiamo anche Andrea Parodi, Massimo Bubola e Jono Manson. E allora, Maurizio, noi continuiamo anche con l'ascolto. Certo, io ho scelto un altro pezzo, questo è un pezzo di Andrea Parodi, un pezzo molto bello, trascinante, decisamente ben fatto, come tutti i dischi, tutti i pezzi dell'album. Poi sceglieremo altri due pezzi, sceglieremo chiaramente anche un pezzo di Massimo Bubola. Cosa pensi di questo brano di Andrea Parodi, Massimiliano? Beh, questo brano in particolare credo ha una storia molto molto interessante, anche perché dietro ogni brano di questo disco c'è un personaggio, una storia, un periodo storico, un periodo e un contesto sociale e culturale diverso, quindi quest'idea di lavorare sui banditi noi l'abbiamo trasposta in varie epoche, in varie realtà e in vari luoghi, quindi... In questo caso parliamo di Billy the Kid, che è uno dei banditi americani più famosi. Esatto. E Andrea ha raccolto questa storia in cui appare che alcuni anni dopo che Billy the Kid era stato ufficialmente ucciso da Pat Garrett, in giro si vedeva spesso questo strano personaggio che si chiamava John Miller, o perlomeno diceva di chiamarsi John Miller, ma che assomigliava in maniera abbastanza incredibile a Billy the Kid. E pare che questa canzone comincia con questo prete che sposò questo John Miller con questa donna messicana che giura, che assicura che John Miller era Billy the Kid sotto mentite spoglie. E poi la cosa bella di questo brano che ora ascolteremo è che cantiamo tutti i Barnetti, tutti insieme, anzi c'è addirittura un piccolo cameo di Erika Ardemagni, che è la moglie di Bubola, che canta in questo disco e interpreta proprio la moglie messicana di John Miller, e ognuno di questi personaggi racconta la propria versione dei fatti o il proprio motivo per cui ritiene che John Miller fosse in realtà Billy the Kid sotto una nuova identità. Anche perché Billy the Kid era Henry McCarthy, se non sbaglio, no? Esatto. Come nome. Bene, allora ascoltiamo questa canzone. Prima dobbiamo passare rapidamente per la nostra pubblicità e dopodiché ci risintonizzeremo con Barnetti Bros Band per ascoltare Dove corrono i cavalli qui su Blu Radio Veneto. Veneti, una collana imperdibile mai pubblicata. Venezia, Padova, Treviso, storia, immagini, meraviglie, segreti, dalle origini delle città alla caduta della Serenissima. Un'opera imperdibile mai pubblicata, in 5 volumi cartonati di grande formato, con più di 1000 illustrazioni, dipinti, affreschi, stampe, incisioni e fotografie. Veneti, storia, immagini, meraviglie, segreti, in edicola solo 9,90€, con Il Mattino, La Tribuna, La Nuova. In collaborazione con Enel, l'energia che ti ascolta. All'altare, mese dopo il suo funerale, per mano a una donna messicana, nell'altra una pistola e una ferita di qualche settimana. Che cosa importa se adesso un altro nome l'ho visto negli occhi alla comunione? Salutavano fuggire verso l'ovest. Da dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? dove corrono i cavalli. E forestiero, fermati un istante, a Chemado nel nostro ristorante. Avrai la gola secca e la strada polverosa, ti verseremo del vino e potrai mangiare qualunque cosa. Però non chiedere che fine ha fatto il vecchio cuoco, non temere, sa camminare anche nel fuoco. Questo posto era del padre di mio padre e l'ho cacciato. Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Gli ho dato un tetto e metà del mio bestiame, non vi azzardate a dire che era un infame. Mi chiamo Gesù e sono un mandriano, colui da queste parti fuori legge e ladri girano lontano. Non vi dirò mai a che parte sia fuggito e nemmeno il suo whisky preferito. La sua spalla storta e gli occhi azzurri come il cielo al tramonto. Da dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Più che ragazzo son partito soldato e come mio padre son resuscitato. Combattevo in Germania nella grande guerra, ero nato un aprile senza madre, senza bandiera e senza terra. Nelle mie vene scorre sangue indiano, allevato da un bandito, un mandriano. Diceva sempre, non toccare quel fucile e quel baule. Ma dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Se cercate quel bandito, dimmi da chi è proprio mio marito. Perciò sceriffi e banchieri, cominciate a tremare. C'è un'attacca sulla sua pistola per ogni testa che ha fatto saltare. La mia vita cominciò nell'81. Chi ero prima non lo saprà nessuno. Ma dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Dove corrono i cavalli? Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo è Ciupadero, l'album del 2010 di Barnetti Bros Band. Ci siamo ascoltati l'Angelo del Bronx. Ma Maurizio, chi sono i Barnetti Bros? Barnetti Bros, eccoli qua. Vincent Barnetti, cantastorie fuorilegge, ovvero sia Massimo Bubola. Giovanino Barnetti, cantastorie fuorilegge, John Manson. Sonny Barnetti, cantastorie fuorilegge, Massimiliano La Rocca. Billy Barnetti, cantastorie fuorilegge, Andrea Parodi. E quale infine... Barnetti, scusa, abbiamo a telefono? Barnetti, ma praticamente Sonny Barnetti. Eccolo qua. Ecco, allora... Sonny Barnetti, ci sei? Sì, gli altri li ho uccisi. Ah, gli altri li ho uccisi. Perfetto. Sì, prendo tutti i soldi io. C'è anche Assunta Barnetti, la moglie di Bubola, dobbiamo dire, ovvero sia Erika Altemani. Mi sembrava di aver sentito quattro spari. Esattamente. Non sapevo dove venissero. Vabbè, Massimiliano, ancora benvenuto, benvenuto in frequenza. Stiamo piacevolmente parlando con te per questo nuovo lavoro che si intitola Ciupadero Barnetti Bros Band. Ci sei, Massimiliano? Sì. Vorresti citare, se ti ricordi, qualche data che fareste, che dovrete fare adesso qui in Italia, se avete delle date già previste da fare? Ma in realtà in questo momento stiamo lavorando ad un grande progetto, in realtà, rispetto al discorso del live. Questo progetto sarà l'idea di portare qui in Italia grosso della band che ha suonato nel disco, quindi avere una band americana insieme a noi quattro, e in più avere al seguito in questo tour uno se non due ospiti che partecipano al disco, quindi Tom Russell, Terry Allen, Chris Barron, diciamo uno o due fra questi chi sarà disponibile. Questo è un progetto su quale stiamo lavorando e che occorreranno un po' di mesi di lavoro e che contiamo di portare in tour per l'autunno addirittura. Bene, è una cosa molto interessante. Mentre invece per quest'estate invece faremo una presentazione dei Barnetti all'interno dei concerti di Massimo Bubola, quindi suonando con la sua band, quindi il primo appuntamento insomma con i Barnetti è sicuramente per quest'estate, con una sorta di anteprima di quello che poi sarà il tour invernale. Acustici o elettrici, Massimiliano? Parliamo sempre sia estate e inverno di full band, quindi full band, tutti musicisti. In questo momento ti dico, siamo sulla primavera, abbiamo un po' di presentazioni in giro e le facciamo in maniera molto elastica, nel senso che poi alla fine siamo chiaramente John in America, ma io, Parodi e Bubola siamo in giro sempre anche per i nostri concerti, quindi non ne approfittiamo per presentare Barnetti. Posso dire che io, Bubola e Parodi presentiamo una sorta di incontro concerto Ciupadero agli amici e al pubblico il 27 marzo al Giardino di Verona. Ah, bene. Che credo sia un locale ben conosciuto in zona. Certamente. E poi ad aprile, invece, per questo poi rimando insomma la gente ai miei vari siti, al mio MySpace, ad aprile siamo io e Andrea Parodi, siamo in giro, abbiamo una decina di concerti tutto il mese di aprile in cui presenteremo l'intero disco di Ciupadero e anche chiaramente brani delle nostre produzioni soliste, quindi per quello basta cercare sul mio MySpace, myspace.com/Massimiliano La Rocca, ci sono tutte le date ad aprile. Bene, allora Ciupadero, sono 11 canzoni, sono 11 ritratti, ovvero anche 11 cartoline che parlano appunto di questi briganti, di questi fuorilegge. Andiamo dal western, ma arriviamo anche a quello che è il risorgimento italiano e anche affrontando il tema delle camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. Come mai questa scelta così fuori dall'America? Ma come ti dicevo, il concetto poi di fuorilegge che poi lega tutto il disco è inteso poi anche in senso lato. C'è da dire quindi le figure sono tante e tutte diverse. Voi avete passato l'Angelo del Bronx, che non è certo una figura propriamente western, ma è la storia di questo cantante italo-americano che negli anni 50 era molto celebre, si chiamava Dion DiMucci. Perché in fondo poi anche New York è un po' una città di frontiera dove le culture si mischiano, esattamente come si mischiano al confine col Messico dove abbiamo registrato il disco. E poi parlavi di Garibaldi perché abbiamo ripreso una canzone molto nota di Massimo Vuvolo, che è Camicie Rosse, che è la storia di Garibaldi, e l'abbiamo cantata insieme agli americani in inglese, quindi questo proprio per, ti dicevo, per creare questa sorta di gioco, scambio e confronto fra linguaggi e storie diverse. Quindi abbiamo fatto cantare agli americani una storia profondamente nostra, italiana, mentre per esempio io e Parodi nel disco cantiamo e abbiamo tradotto una ballata molto famosa in America, Pancho and Lefty, l'abbiamo tradotta in italiano, quindi in un certo senso ci sono due immaginari che si sono scambiati di posto, no? Quindi anche questo è in continuità un po' con l'idea di confronto, incontro fra due culture diverse. E c'è uno scambio anche, visto che avete tradotto in lingua anche Il bandito e il campione. Esatto. Quindi è stato uno scambio, esatto, da Tom Svanzant, mitico musicista americano, a De Gregori, esatto, o a Luigi Grechi, visto che la ballata l'ha scritta il fratello di De Gregori. Esatto. E poi Garibaldi, c'è da dire una cosa, in questo, come dice sempre Vuvola, la guerra l'ha vinta e quindi è diventato un eroe, avesse perso la guerra sarebbe diventato un bandito. Vero, l'ha detto giustamente, l'ha detto proprio anche l'altra sera questo discorso. Assolutamente sì. Allora, Barnetti Bros Band, prima di salutarci parliamo ancora, abbiamo già citato Sante e Girardengo, che è proprio il riferimento del bandito e il campione di prima, e c'è anche ad esempio una ballata molto bella, la ballata di Anna Schnell. Sì, questo è un altro brano di Vuvola, dove anche qui abbiamo preso l'immaginario non propriamente americano, perché la storia di questa Anna Schnell, che era la storia della prima donna marinaio della marina inglese, parliamo del Settecento, una donna che si finse uomo per potersi arruolare nella marina inglese dell'epoca, per andare alla ricerca di questo marito che era scappato. Una storia, insomma, davvero pazzesca. Come vedi, sì, cambiano le epoche storiche, cambiano gli immaginari, cambiano i personaggi, ma il filo comune è comunque sempre quello di ritrarre dei personaggi, insomma, che se non erano fuori legge erano sicuramente fuori dagli schemi. Fuori dagli schemi, giustamente. A proposito di fuori dagli schemi, ci posizioniamo un attimo prima di andare fuori, quindi restiamo in frontiera, in particolare l'ultimo pezzo del vostro disco, del disco di Barnetti Bros Band, si intitola Città di Frontiera. Vogliamo parlarne, poi alla fine, quando ci saluteremo, sentiremo anche questo pezzo, ma prima ne parliamo, facciamo un po' di cappello. Città di Frontiera è il disco, è il brano che chiude il disco, perché in un certo senso ne racchiude un po' tutti i temi, e soprattutto è l'immaginario che fa da sfondo a tutte queste storie. Quindi è una cartolina da queste città di frontiera, dove le culture, i suoni, i profumi e i sapori si mischiano in maniera molto molto stretta. E devo dirti che poi nei miei viaggi in America, insomma, di città di frontiera ne ho viste molte, da Austin a El Paso, anche alla stessa Santa Fe, dove poi la frontiera, il confine è molto molto vicino, c'è area di Messico, ma ci sono molte molte altre culture che sono ben presenti. Ti parlavo appunto a Santa Fe, o particolarmente a Ciupadero, è fortissima ancora la presenza della cultura indiana. Però è anche vero che poi oggi il mondo è tutta una grande frontiera. Quando penso a delle città di frontiera, penso a Napoli, penso a Marsiglia, penso anche a Milano, insomma, perché poi oggi viviamo in un mondo, in una società multiraziale, multietnica, e credo che, insomma, mi piace pensare che Città di Frontiera sia anche un brano che inviti alla tolleranza e al rispetto e alla convivenza, nel nome magari anche della buona musica. Sì, decisamente, decisamente proprio così. Bene, grazie Massimiliano Raocca, grazie a voi di questa cavalcata in questo nuovo disco dei Barnetti Bros Band, che si chiama Ciupadero. Disco molto interessante, che racchiude tante diverse facce di un'unica voglia di suonare, quello importante secondo me. Bene, allora grazie Massimiliano di essere stato con noi, salutaci anche gli altri. Senz'altro. Gli altri banditi che li hanno già chiusi in carcere. Esattamente. Assolutamente sì, comunque vi lasceranno la libertà provvisoria così da andare in giro, sì, a presentare qualche volta. Certo, qualche per suonare volta, qualche sì, volta. Come Johnny Cash. Ecco, con Johnny Cash, certo, che è uscito proprio l'album a qualche giorno fa, l'ultimo album. Purtroppo il disco postumo, uno degli ennesimi dischi postumi di Johnny Cash. Benissimo, salutiamo. Bene, ancora. Buon lavoro, grazie ancora. Grazie a te, Rocca, Massimiliano. Grazie di essere stato con noi. Ora concludiamo con l'ascolto del brano che termina per l'appunto il CD di Barnetti Bros Band, Chupadero. Questa canzone si intitola Città di Frontiera. Radio Sera. Abbiamo ascoltato questo pezzo davvero grandioso, davvero bello, a concludere l'intero lavoro di Barnetti Bros Band, Ciupadero, proprio uscito forse il mese scorso, vero Maurizio? Sì, è uscito da qualche settimana, quindi è recentissima come uscita. Questo Barnetti Bros Band, Ciupadero, che è una... prodotto dall'etichetta di Bubola, ricordiamo che la Hacker Music, poi distribuita da una multinazionale, e proprio l'ultimo pezzo è un pezzo corale, proprio c'è divertimento, voglia di suonare, di accattivante, bello, veramente bello, un disco molto positivo, 11 brani decisamente importanti, fatti bene, un divertimento però pensato, costruito in una certa maniera. E poi c'è un divertimento doppio, cioè quello di ascoltare queste ballate che, come si dicevano prima, sembrano molto... molto tranquille, sì. Anche facili, però poi se si va a guardare anche i testi si nascondono varie, un po' di malinconia, diciamo, varie insidie, sì, varie insidie, un po' di malinconia, cioè i testi sempre di un certo livello, e musicalmente parlando è un disco fatto bene, costruito con molta intelligenza. Beh, quattro musicisti di grande valore, certo, c'è poco da fare. Non a caso c'è anche il Massimo Bubo là dentro, che insomma qualcosa in fatto di musica ma ne sa, anche perché è stato anche un grande protagonista ancora negli anni passati, ancora aiutando il maestro Fabrizio De André. Si è fatto due album fondamentali, Rimini e l'Indiano, il famoso album dell'Indiano, quello è fondamentale. A proposito del disco dell'Indiano, abbiamo scelto un disco il Cavaliere Elettrico di Massimo Bubola, cioè un disco dal vivo praticamente. C'è il Cavaliere Elettrico 1 e 2, che raccoglie i brani del 76 fino al 2001, certo. Appunto, e da questo doppio lavoro andiamo ad ascoltarsi appunto Masterpiece assoluto, Hotel Supramonte, esattamente. Proprio questo pezzo di De André Bubola De André.